Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi, buon lunedì e speriamo buona settimana. Siamo pronti per sentire i titoli del nostro sommario, ma prima voglio ringraziare Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Siamo pronti. Tiroide, una ghiandola da conoscere e da proteggere. Rimedi naturali dalla dispensa di casa. Sclerosi multipla, novità dalla ricerca. Sì, oggi abbiamo pensato di dedicare la puntata alla tiroide. Può succedere che vada in tilt e quindi produca una quantità eccessiva di ormoni, costringendo l'organismo a usare energia più velocemente del normale, il caso dell'ipertiroidismo, o al contrario produca una quantità ridotta di ormoni e quindi faccia usare l'energia più lentamente, come nel caso dell'ipotiroidismo. Ma questa piccola ghiandola può anche infiammarsi, ecco le cosiddette tiroiditi, ingrandire. Allora si parla di gozzo, o produrre una o più tumefazioni che vengono chiamati noduli e che in alcuni rari casi possono essere sedi di tumore. Allora la puntata di oggi, come avrete capito, è proprio tutta dedicata alle malattie della tiroide. Se l'argomento è di vostro interesse, rimanete, iniziate a scriverci al 349 238 6666 o a chiamare il nostro numero verde 800 24 0024. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Massimino D'Armiento, che è ordinario di endocrinologia e direttore del Centro di Malattie della Tiroide all'Università La Sapienza di Roma. Professore, bentornato, grazie per essere con noi. Salve, buongiorno. Professore, questa piccola ghiandola, perché è abbastanza piccola, quanto è grande, professore? È grande come una farfalla, la forma di una farfalla, e pesa una quindicina di grammi, quindi è molto piccola, come diceva lei, è situata nella regione anteriore del collo e in condizioni normali la tiroide non si deve vedere, cioè quella che noi chiamiamo l'ispezione, non si deve vedere, quindi il collo non deve essere grosso, deve essere liscio, sfumato, e alla palpazione, che è il primo atto che fa il medico quando visita il paziente, la stessa cosa, la tiroide non si deve apprezzare sotto le dita del paziente, perché significa quindi che una tiroide normale è piccola e non deve essere ingrandita, perché quando è ingrandita c'è una di quelle malattie che lei elencava nell'inizio. Professore, quindi non deve essere visibile, ma la tiroide è anche una ghiandola che, quando inizia a non funzionare più bene, non dà subito dei sintomi evidenti. È un po' subdola, i problemi ci sono, ma in qualche modo i sintomi sono sfumati e quindi difficili per chi ne soffre a evidenziare. Proprio così. Noi distinguiamo alterazioni della funzione della tiroide, come diceva lei prima, in senso ipofunzionante e iperfunzionante. La ipofunzione è molto più frequente e diffusa che non l'iperfunzione, e i segni e i sintomi dell'ipofunzione sono esattamente come diceva lei, molto gradualmente iniziano nel tempo e molto lentamente progrediscono, e quindi spesso, siccome sono segni molto sfumati, come ad esempio la difficoltà a perdere qualche chilo di peso di troppo, come ad esempio un certo gonfiore sotto gli occhi, sotto le palpebre, specialmente al mattino, che è, noi notiamo che è più difficile a riassorbirsi che non qualche anno prima, una pelle un pochino più secca con una tonalità del colorito un pochino giallastro, una modesta intolleranza al freddo, una stanchezza, una difficoltà nel fare le cose che ogni giorno la nostra vita ci impone di fare, ma come lei ben comprende possono essere dei segni che vengono scambiati con un periodo di stanchezza, con certo, qualche anno in più che abbiamo sulle spalle. E poi dobbiamo dire un'altra cosa, tutta la patologia tiroidea, sia in senso di ipofunzione che iperfunzione, è ahimè una prerogativa del sesso femminile. E infatti la tiroide ama, ama così dare problemi a noi donne. Ama il questa farfallina, Senta, noi infatti siamo più svantaggiate perché, come dicevamo, la tiroide ci ha preso di mira, ma ci sono dei periodi della vita di una donna particolarmente delicati, ecco, diciamo così. Sì, sono essenzialmente nella donna, ma questo anche per l'uomo, il periodo della crescita, cioè della pubertà, ma poi nella donna sono due periodi che mettono a super lavoro la tiroide, che sono la gravidanza e l'allattamento. Quindi è fondamentale che la donna che debba prepararsi a una gravidanza abbia un'alimentazione corretta, specialmente dal punto di vista dell'apporto alimentare di iodio, perché questa farfallina che abbiamo sul nostro collo funziona con lo iodio, come le nostre automobili funzionano con la benzina, così lei funziona con lo iodio. E se noi non garantiamo una quantità sufficiente di iodio, questa ghiandola va verso l'ipofunzione. E poiché abbiamo detto nel corso della gravidanza la tiroide deve funzionare, diciamo, quasi due volte il normale, perché deve sopperire alle esigenze della madre e del feto, ecco che prima della gravidanza è necessario che la donna si riempia, per così dire, riempia la sua cassaforte di iodio con un'alimentazione, quindi con sale iodato, e parleremo magari della utilizzazione che oggi è stata resa obbligatoria da una legge del 2005 nella vendita del sale iodato, ma purtroppo ancora non è così diffuso il consumo nella nostra popolazione. È vero. Periodo, mi scusi, che sì, è fondamentale, è quello immediatamente successivo dell'allattamento. Nell'allattamento al seno, che ovviamente noi consigliamo a tutte quante le nostre madri laddove è possibile, per il più tempo che è possibile, lì lo iodio viene concentrato nel latte dalla mammella materna proprio per poter offrire al feto una sufficiente quantità di iodio. Ecco perché nell'allattamento ancora più alto deve essere l'apporto di iodio alla madre. Quindi un invito particolare alle nostre amiche all'ascolto a mettersi in contatto con noi, 800 24 0024. Il professor D'Armiento ha sottolineato l'importanza dei controlli prima di entrare in gravidanza, ma anche poi ha sottolineato l'importanza dell'alimentazione, ne parleremo diffusamente, vero professor D'Armiento? Certo. Il sale iodato, insomma, non fora, non va avanti. Il consumo del sale iodato ha ancora molti buchi informativi, molte remore. Ne parleremo, quindi potete anche raccontarci se lo utilizzate o no e per quale motivo. Se volete sapere se alcuni sintomi che spiegate magari come dovuti allo stress, una stanchezza, il gonfiore sotto le palpebre, come ha ricordato il professor D'Armiento, una pelle piuttosto secca, però ci sono anche altri sintomi, professor D'Armiento, che possiamo sottolineare. Certo, una pelle di colore giallina prima di tutto e poi desquamante, cioè con delle rughe, vorrei dire una parola brutta per le signore, una pelle che sta invecchiando, insomma, no? Magari un pochino più precocemente, con delle rughe, con della la secchezza, sì, e desquama addirittura, per cui queste signore devono passare creme oleose, oli eccetera, ma spesso questo è uno dei primi segni che nasconde una ipofunzione tiroidea. Abbiamo parlato anche della difficoltà nel perdere peso, anche questo può essere un segnale. Certo. E qui dobbiamo fare una distinzione, penso, importante per le radioascoltatrici. La disfunzione tiroidea, nel senso dell'ipotiroidismo, è responsabile di piccoli aumenti di peso e di difficoltà nel perdere questi pochi chili, quindi se li vogliamo quantizzare 3, 4, 5 chili al massimo. L'obesità vera, quindi laddove si parla quindi di un grosso sovrappeso, parliamo di decine di chili, quella non è mai responsabile della condizione di vera e propria obesità, l'ipofunzione tiroidea. Ecco, quindi se uno ha soltanto qualche chilo in più è possibile che possa essere la disfunzione tiroidea, ma se si hanno molti chili in più e si entra nella categoria degli obesi, sì, allora la tiroide non c'entra. Ecco, questo era un chiarimento dovuto, perché tante volte diamo la colpa alla tiroide quando magari non c'entra assolutamente nulla, un po' per comodo. Vero? Così, ecco. E lì invece dobbiamo incidere sul nostro stile di vita. 800 24 0024, abbiamo il professor D'Armiento in linea con noi fino a mezzogiorno, quindi approfitteremo di lui per capire come si possono prevenire, perché si possono anche prevenire i cattivi funzionamenti della tiroide, vero professore? Certo, come in tutte le malattie la prevenzione noi la dobbiamo fare della prima cosa, quindi come prevenzione avevamo detto prima la tiroide funziona con lo iodio, quindi un'alimentazione ricca di iodio significa utilizzare, quali sono i prodotti che contengono iodio? I prodotti che provengono dal mare, quindi i pesci, e il latte, perché il latte, la mammella degli animali da cui noi traiamo il latte, concentra lo iodio. Ecco, quindi questi sono gli alimenti principi. Ma si è visto, Nicoletta, che in tutto il mondo, quindi non solo in Italia, questo non è sufficiente. Quindi la nostra dieta deve essere supplementata di iodio attraverso un veicolo, il veicolo molto semplice che tutti utilizziamo, quello che è il sale. Quindi il sale addizionato di iodio, che si chiama sale iodato, che non è una medicina, ma è una semplice addizione di un elemento come lo iodio ad un comune costituente della nostra alimentazione, che se assunto in piccole quantità, perché sappiamo tutti che il sale deve essere assunto in piccole quantità, dell'ordine di 4-5 grammi al massimo per evitare i problemi dell'aumento della pressione arteriosa, però 4-5 grammi al giorno, che è quello che consumiamo abitualmente di questo sale con aggiunta di iodio, ci garantiscono quell'assunzione ottimale di iodio per il nostro buon funzionamento della tiroide, che è la prevenzione migliore per non avere problemi malattie futuro della tiroide, tra i quali i noduli dei quali parleremo. Di cui parleremo. Allora, di tutto questo parleremo nel corso della trasmissione. 800 24 0024, intervenite, precedenza naturalmente alle signore, come il FO, professor D'Armiento, è naturale. 349 238 6666, se invece preferite mandarci un messaggio. Una mela al giorno. E adesso andiamo in dispensa per imparare a prepararci delle ricettine per il benessere delle nostre mani. È tornata a trovarci Chiara Zambianchi, naturopata esperta in discipline bionaturali. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Allora, le ricettine che ci ha dato l'altra volta per i nostri capelli hanno avuto grandissimo successo, il che dimostra che prepararci le cose così, con gli ingredienti che troviamo in cucina, nella dispensa, magari sul balcone, ci dà grande soddisfazione. Allora, abbiamo pensato che, dato che adesso iniziano i primi freddi, di occuparci delle nostre mani. Sì. Bene, allora potremmo consigliare alle nostre radioascoltatrici una crema da fare in casa molto semplice, emolliente al miele. Bene. Dunque, quindi prendiamo, misceliamo 2 cucchiai da tavola di miele con un rosso d'uovo. Sì. Si aggiunge lentamente 1 cucchiaio di mandorle dolci, poi prendiamo 3 mandorle amare frullate ed infine 5 gocce di olio essenziale di bergamotto, questa essenza molto agrumata. Questa crema va conservata in frigorifero e rinnovata ogni settimana, quindi viene utilizzata proprio per le mani, per le mani screpolate, soprattutto in questo periodo. Se invece vogliamo conservare questa crema per più tempo, sì, dobbiamo utilizzare un olio essenziale al posto dell'olio di bergamotto, sì, un olio essenziale di benzoino, che è una resina. Si trova in erboristeria, in farmacia, dove lo compriamo? Sia in erboristeria che in farmacia. È una resina che funge proprio da conservante naturale. E quindi la nostra crema dura di più. Esatto. Senta, intanto che ci occupiamo delle mani, mi dà anche una ricettina per le unghie? Sì. Allora, potremmo consigliare una ricetta molto semplice, spennellare proprio le unghie con una miscela di olio d'oliva e 3 gocce di olio essenziale di limone. Se metto il bergamotto, che l'ho già usato per quella della mano? Benissimo, un'essenza un pochino più agrumata. Va bene lo stesso, così ne compro uno solo, risparmio anche. Sì, della stessa famiglia, esatto. Benissimo. Oppure immergere sempre i polpastelli, sempre in una tazzina con questa miscela. Ovviamente vanno massaggiate sia le unghie che i polpastelli per lasciare assorbire questo impacco. Voilà, allora le mani e le unghie sono a posto e le ricette, se volete, le potete trovare come sempre sulla pagina di Essere Benessere. Io la saluto e la ringrazio, spero che venga presto a trovarci con nuove ricettine, dottoressa Zambianchi. Grazie a voi. Va bene, allora le lasciamo il tempo di prepararne nuove. Benissimo. Buonissima giornata, grazie. Grazie anche a voi, buona giornata. Pronto soccorso. Torniamo a parlare di tiroide, quando funziona poco, quando invece funziona troppo, ma anche parleremo di noduli insieme a noi il professor Massimino D'Armiento, e abbiamo Maria Luisa che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Volevo esporre il problema. Sì. Diciamo che provengo da una famiglia dove evidentemente sì, c'è questo problema, perché ho una sorella che è stata in ipertiroidismo con Basedow. Sì. Io sono in ippo da anni, ho un figlio di 30 anni che è da 3 anni che è andato in iper, ma senza Basedow. Sì. Negli anni hanno dovuto sempre modulare il dosaggio e adesso sembra che si arrivi alla decisione di bruciare. Non so, questo lo dico così terra terra. Sì, no, ma il professor D'Armiento capisce. Ecco, la ghiandola, sì. Volevo sapere il pro e il contro, e se c'è eventualmente da aspettare ancora o non ci sono altre soluzioni. Ecco. Maria Luisa, intanto aspetti in linea perché magari il professor D'Armiento ha bisogno di ulteriori informazioni, ma intanto volevo chiedere, professore, una storia quasi familiare quella che ci racconta Maria Luisa, anche se lei è ipotiroidea, la sorella iper, il figlio di nuovo ha dei problemi di tiroide, insomma, la tiroide in questa famiglia dà problemi, come mai? Sì, perché le malattie della tiroide hanno questa caratteristica di essere sovente trasmesse per via familiare. Perché questo? Perché entrambe le forme più comuni delle malattie della tiroide, abbiamo detto prima qualcosa dell'ipotiroidismo e adesso un figliolo della signora Maria Luisa invece affetto da ipertiroidismo, sono scatenate dal fatto che l'organismo produce degli anticorpi, cioè degli autoanticorpi contro le strutture del proprio stesso organismo, cioè la tiroide stessa. E questi anticorpi, a seconda delle circostanze, possono o andare a distruggere la tiroide, e abbiamo quindi segni dell'ipotiroidismo, oppure questi autoanticorpi che impropriamente il nostro corpo produce in queste situazioni familiari possono andare a stimolare la tiroide e ecco quindi l'ipertiroidismo. Ed ecco come quindi in una stessa famiglia possono manifestarsi sia casi di ipo sia casi di ipertiroidismo e il denominatore comune è la predisposizione di queste famiglie geneticamente determinata a produrre degli autoanticorpi. Quindi, professor D'Armiento, se abbiamo dei casi in famiglia, è bene controllare la tiroide? Assolutamente sì. Se ci sono dei casi in famiglia, sia di alterato funzionamento della tiroide, sia ancor di più delle tumefazioni della tiroide, cioè alterazioni più o meno localizzate nella struttura di questa nostra farfallina che normalmente abbiamo detto non deve essere ingrandita, ma in alcuni casi si possono presentare dei piccoli aumenti di volume localizzati che si chiamano noduli. Anche questi sono familiari. La grandissima parte di questi noduli, diamo subito una parola buona di notizia, tranquillità assoluta, oltre il 95% di questi noduli sono benigni. I pochi maligni, e andranno fatte, magari ne diremo quali sono gli accertamenti che vanno fatti per escludere la malignità in questa grandissima quantità di noduli, i pochi maligni possono avere una componente familiare. Per cui la prima cosa, la prima fortuna nostra è avere dei genitori che non hanno sofferto di tiroide né in senso iper né in senso ipofunzionante, ma ancor di più che non hanno avuto noduli alla tiroide. Professor D'Armiento, la nostra ascoltatrice diceva le è stato proposto a mio figlio di bruciare la ghiandola. Certo. Cosa questa vuol dire? Significa somministrare al paziente dello iodio radioattivo, lo iodio 131, il quale ha la capacità di, mi passi il termine, di entrare selettivamente in quel gruppo di cellule della tiroide che hanno cominciato a funzionare tanto e danno origine all'ipertiroidismo del figliolo della signora Maria Luisa e vanno a bruciare, come diceva la signora, cioè vanno a distruggere queste cellule per effetto delle radiazioni. Diceva la signora, quali possono essere le conseguenze nel futuro di questa situazione? Diciamo da prima il beneficio. Il beneficio è quello che in una persona relativamente giovane non va incontro ad un intervento chirurgico, con i piccoli rischi che sono connessi a questo intervento chirurgico. Il fatto, diciamo così, negativo, ma è che quasi un fatto voluto, è che quasi inevitabilmente nel distruggere queste cellule che funzionano troppo, poi la tiroide va in ipotiroidismo, ma il medico lo sa, in questo caso il medico nucleare che somministra lo iodio radioattivo, sa che nel corso del tempo il soggetto andrà incontro ad ipotiroidismo, quindi farà un follow-up periodico, ma c'è da rilevare che mentre il trattamento dell'ipotiroidismo è semplice, e quindi se si sa che prima o dopo il paziente diventerà ipotiroideo, lo si invita a delle visite periodiche e appena inizia l'ipotiroidismo si cura. Il trattamento invece dell'ipertiroidismo, come ha detto la signora, ha fatto già 2 cicli di terapia con i cosiddetti farmaci antitiroidei, che sono farmaci abbastanza tossici, di difficile maneggevolezza. Quindi tra le due cose, meglio essere ipotiroideo che non ipertiroideo. Allora, naturalmente, insieme al professor D'Armiento risponderemo ai vostri messaggi, alle vostre telefonate. Diremo, professore, quali sono gli esami che ci permettono di capire se la nostra tiroide funziona poco, troppo, se ci sono dei noduli. Naturalmente parleremo anche di questo e di interventi. Molti messaggi sul sale iodato, ve ne leggo solo uno ma lo riprenderemo. Perché consigliate a tutti lo iodio? Mi risulta essere molto dannoso per gli iper che magari ne sono inconsapevoli. Ho una figlia con Basedow che si cura da 15 anni, ora ne ha 38, ci scrive Lucia. Ecco, ci siamo tornati insieme, oggi ci occupiamo della nostra tiroide che può andare in tilt, lavorare troppo, troppo poco, infiammarsi e diventare sede di noduli. In linea con noi abbiamo il professor Massimino D'Armiento, pronto a rispondere alle vostre domande all'800 24 00 24. Ma intanto saluto il professor Comi del Dipartimento Neurologico Università Vita Salute del San Raffaele, che è in linea con noi per parlarci di un nuovo successo della ricerca nella cura della sclerosi multipla. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie. Professore, allora, ci sono buone notizie. Un farmaco già approvato per una forma di sclerosi multipla, se somministrato precocemente, può ridurre l'attività della malattia. E questo è un farmaco che si chiama glatiramer acetato, che già in passato era stato dimostrato essere molto attivo nel ridurre gli attacchi che caratterizzano la malattia. Questo nuovo studio ha realizzato un concetto molto importante. Il farmaco usato proprio per il primo attacco della malattia, quindi all'esordio della malattia, ha dimostrato di essere molto più efficace di quando viene usato anche 2 o 3 anni dopo l'esordio, quindi nel corso della malattia. Quindi il concetto nuovo è che la sclerosi multipla deve essere attaccata immediatamente appena fa la sua comparsa. In questo modo il farmaco ha ridotto di circa la metà il rischio di avere l'attacco che caratterizza la malattia. Professor Comi, come si manifesta la malattia? Lei parla del primo esordio, del primo attacco. Sì, infatti l'unico problema è che quando c'è un primo attacco bisogna cercare di essere certi che questa è veramente la malattia, e questo richiede una serie di accertamenti. Il primo attacco di solito è caratterizzato da disturbi della vista, storpiamento della vista, annebbiamento della vista in un occhio, oppure da sensazioni di vertigine, oppure da formicolii che prendono una parte del corpo, abitualmente un braccio o una gamba, oppure ancora da una difficoltà nel muoversi o nell'utilizzare un braccio o una mano, insomma. Ma fenomeni che di solito sono transitori, durano 2, 3, 4 settimane e poi se ne vanno, però sono il preludio poi di una serie ulteriori di episodi analoghi che, se non corretti rapidamente, possono poi portare a una reale e continua disabilità. Professor Comi, io la ringrazio, complimenti per questo studio che segna sicuramente un passo avanti nella ricerca per la cura della sclerosi multipla, a cui dedicheremo un'intera puntata proprio con il professor Comi. Intanto la ringrazio e buon lavoro. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Professor D'Armiento, invece torniamo ad occuparci della nostra tiroide. Concludiamo il capitolo del sale iodato. Per tutti? Dunque, assolutamente sì. Assolutamente sì, e noi siamo dei cittadini italiani, quindi dobbiamo seguire le leggi italiane. Sì. Esiste una legge del 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale che impone in tutti i punti di vendita la disponibilità di sale iodato, e addirittura dice un'altra cosa, che il sale non iodato deve essere richiesto espressamente dal compratore. Dice ancora un'altra cosa, che in questi nostri supermercati dovrebbe essere indicato nel ripiano dove è venduto il sale iodato, che costa pochi centesimi in più dell'altro sale, una locandina che invita a questo acquisto per gli enormi benefici che si hanno. Allora, tutti ti sale iodato. Lei pensi, Nicoletta, e se mi scusi professore, come ci scrive Lucia, io sono ho l'ipertiroidismo e non so di averlo? Il danno, seppur c'è, è talmente minimo che nel rapporto costo-benefici tra un uso su tutta la popolazione che comprenda qualche piccolissimo caso di ipertiroidismo, laddove il consumo di quantità normali di sale non influenza negativamente la malattia. Deve passare, mi consente, assolutamente il messaggio sale iodato per tutti. Se lei stasera va a cena con suo marito a Parigi, magari glielo auguro, oppure a Londra se preferisce, o a Stoccolma, lei non lo sa, ma sul tavolo del ristorante o nell'aereo c'è solo ed esclusivamente sale iodato, e questo da 20, 30, 40 anni. E in questi paesi che abbiamo citato, una trasmissione con l'oggetto come la sua di questa mattina non sarebbe neanche stata fatta, perché l'incidenza dell'ipotiroidismo da deficit dell'apporto alimentare di iodio è scomparso. I noduli sono nettamente meno prevalenti che non da noi, soltanto perché si usa sale iodato da 30 anni. Quindi allora, ci ha convinto. Il gozzo che è la cosa che noi storicamente ancora ci portiamo avanti, cioè questo enorme volume dell'aumento del collo che poi deve portare necessariamente all'intervento chirurgico perché non abbiamo armi mediche, è scomparso in questi paesi. Quindi basterebbe dire questo per invitare tutti, assolutamente tutti, al consumo del sale iodato. La nostra massima è la seguente: dobbiamo consumare tutti poco sale, ma quel poco sale deve essere iodato. E così abbiamo risposto anche Manuela, che ci ha inviato un'email a essere benessere@radio24.it. Ho tre bambini, su consiglio del pediatra il cibo che faccio per loro è sempre molto parco di sale per i cibi cotti e praticamente assente nei cibi crudi. Devo usare il sale iodato sui cibi crudi per loro, e quanto ne uso? Quindi sì al sale iodato, poco. Proprio così, con moderazione. Ho risposto poco. Io, ho fatto il professor. Senta, professor Darmiente, promossa. Intanto, prima di parlare degli esami da fare per capire se la nostra tiroide sta bene, funziona bene, né troppo poco, abbiamo in linea con noi Maria, che ci chiama da Milano. Buongiorno Maria. Buongiorno. Maria, ci racconti, ci racconti di questa sua farfallina? Le dà qualche problema? Nel senso che io non sono una malata grave, perché tutti gli esami che faccio, dove il limite massimo è 5, io sono sempre, se fosse 5 sono 4,90. Allora, cosa succede? Che ho tutti i sintomi, e me ne sono accorta io perché sono sempre stata calorosa e adesso a freddo. Mi dà fastidio il freddo, sono più stanca di prima. E soltanto che mi dicono che non ha senso intervenire perché comunque non sono grave. Maria, allora lei è già avanti perché già gli esami li ha fatto e sa quali sono gli indicatori che misurano l'attività della nostra tiroide. Ma per chi invece non le sapesse ancora, il professor Darmiento ci dà un rapido aggiornamento della situazione. Quali sono gli esami che mi permettono di capire se la mia tiroide va bene o va male? Ci sono due esami diretti che sono FT3 ed FT4, sono delle sigle che significano i due ormoni, la T3 e la T4, che vengono prodotti dalla tiroide. Sì. 3 e 4 stanno a indicare che contengono 3 o 4 atomi di iodio, e ritorniamo allo iodio, ecco perché serve. Allora, questi sono esami diretti, se sono troppo alti si soffre di ipertiroidismo, se sono bassi di ipotiroidismo. Certo. Poi c'è un esame altrettanto importante che dà un indice indiretto della funzione tiroidea, che è il TSH. Sì. Vale a dire, siccome il TSH è un ormone prodotto dall'ipofisi e l'ipofisi comanda tutte le altre ghiandole endocrine, tra le quali la tiroide, questo TSH, non appena comincia a vedere, per così dire, che la funzione tiroidea tende ad essere bassa, e questo è il caso della signora Maria, o abbassarsi di poco, subito aumenta per cercare di sferzare, di stimolare questa tiroide. Ed ecco perché io consiglierei, se mi consente, alla signora Maria di iniziare una terapia per l'ipotiroidismo, perché lei in questo momento sta in una condizione che noi definiamo ipotiroidismo latente, cioè molto iniziale, che viene svelata non dagli esami diretti che ancora sono normali, ma quell'esame indiretto del TSH è così sensibile, così precoce, che basta un livello di 5, di 4,90 per dire la spia che è una ghiandola che sta andando incontro all'ipotiroidismo. Quindi il TSH? 30, quindi TSH un pochino che tende a salire indica già una condizione molto iniziale di ipotiroidismo che va trattata. Le ultime accertamenti che una persona che vuole indagare sufficientemente la funzione tiroidea sono il dosaggio di quegli anticorpi che dicevamo in precedenza, che sono all'origine di quasi tutti i casi di ipotiroidismo non dipendenti da deficit dell'apporto iodico e di quasi tutti i casi di ipertiroidismo. Noi entreremo anche in sala operatoria, professor D'Armiento, perché adesso gli interventi, quando è necessario togliere la tiroide, diventano sempre meno invasivi, le cicatrici più piccole, ma vogliamo cercare come sempre di vederci chiaro. Ci raggiungerà, anzi no, e l'abbiamo già in linea. Buongiorno professor De Antoni. Buongiorno a lei signora. Ordinario di chirurgia alla Sapienza Università di Roma e presidente della Società Italiana di Chirurgia. Quindi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Insieme al professor D'Armiento e al professor De Antoni capiremo quali sono i casi in cui occorre passare la mano al chirurgo e soprattutto cercheremo di fare luce su questi nuovi interventi per capire quando sono indicati, i loro pro e i loro contro. Allora, professor D'Armiento, intanto le leggo un messaggio di Norma che ci scrive da Verona. Grazie, finalmente ho le idee chiare sulla tiroide. Complimenti al professore. Professore, complimenti. Grazie. Ecco. Allora, intanto, professore, vogliamo dire quali sono i casi? Abbiamo parlato di ipertiroidismo, ipotiroidismo e degli esami che ci permettono di valutare la salute e il buon funzionamento della nostra tiroide. Ci sono però dei casi, delle situazioni in cui si deve intervenire chirurgicamente. Quando, professor D'Armiento? Così poi passiamo la parola al professor De Antoni. Quando la tiroide è molto grande. Allora sì. Questa tiroide molto grande comprime, come potrà dire meglio l'amico chirurgo, comprime le strutture vicine, la trachea e l'esofago e può dare grossi problemi dalla respirazione alla deglutizione. Quindi quando la tiroide è molto grande oppure quando uno o più di quei noduli dei quali abbiamo parlato prima è o fortemente sospetto di albergare un tumore o addirittura, come ormai si fa quasi sempre, facciamo la diagnosi preoperatoria di tumore in quel nodulo e allora il paziente diventa, per così dire, di pertinenza, tra virgolette, chirurgica. Vado un attimo a Prato, ci aspetta Roberto, 824-0024, prima di dare la parola al professore De Antoni. Roberto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Che succede, Roberto? Allora, io le spiego la mia storia. Io nell'80, io ho 44 anni, sì. Quindi nell'88 mi pare, la prima volta che mi sono accorto, guardandomi allo specchio, che avevo al gozzo avevo una protuberanza, sì. Ingollando, mi veniva su e giù. Quindi mi andavo a fare vedere all'ospedale e mi hanno trovato un nodulo sopra la tiroide dalla parte destra. Sì. All'inizio mi hanno curato con Eutirox, ma anche per colpa mia, perché forse non l'ho preso in regolarità come dovevo prenderlo, sì. Questo nodulo mi è cresciuto tanto, a tal punto che nel 99 a Careggi dal professor Cicchi sono stato operato e mi hanno asportato metà parte della mia tiroide, sì. Cioè la parte destra della tiroide. Sì. Da allora sono passati 10 anni, io non ho più preso Eutirox perché, il professore lo sapranno benissimo, anche solo con la parte sinistra la tiroide funziona, mi funziona egregiamente bene. Bene. L'unica cosa che dagli esami a me mi è sempre venuto fuori, appunto, che l'FT3 e l'FT4 sono nella norma, mentre la TSH è sempre un po' alterata, sì. Diciamo a 5,3, 5,4. Volevo sapere comunque i professori... Cioè io non facciamo ho mai un avuto... consulto rapidissimo. Professor De Antoni... Sì, io ho sentito quello che ha detto poco fa il professore D'Armiento, sì. E questo Roberto con il quale stiamo parlando evidentemente ha uno stato di ipotiroidismo latente, perché evidentemente quella parte di tiroide rimasta non è sufficiente ad assicurare un'omeostasi perfetta. Io instaurerei un trattamento con Eutirox a dosaggi che vanno valutati a secondo poi della risposta rispettivamente dell'FT3, dell'FT4 e del TSH. Anche per diminuire l'incidenza di possibilità di una recidiva, sì. Su quel lobo residuo, perché sono con una sovrastimolazione del TSH è più facile che si possa andare incontro a una recidiva. Professor D'Armiento, anche lei è sulla stessa linea? Pienamente d'accordo. Questo dimostra che quindi, oltre gli esami diretti che avevamo detto, l'FT3 e l'FT4, è molto più sensibile, come diceva il professor Piantoni, il TSH. Pienamente d'accordo. Allora, invece, professor De Antoni, andiamo in sala operatoria. Adesso dicevamo la chirurgia diventa sempre meno invasiva e soprattutto la cicatrice diventa più piccola. Questo a noi donne fa sicuramente piacere, perché la tiroide, abbiamo detto, predilige il sesso femminile. Prima le cicatrici erano più lunghe, adesso si fanno il taglietto, diventa più piccolo. Ma ecco, io penso che non sia solo un problema estetico. Io vorrei capire da lei quali sono le indicazioni, quando si può fare questo tipo di chirurgia del taglio piccolo, così possiamo definirla, ma soprattutto quali attenzioni si debbano avere per soprattutto preservare la funzione, perché questa è importante. La tiroide è messa, questa farfallina, in un punto critico e ha vicino delle strutture che, se lese, ci danno poi dei guai. Professore. Lei ha dato già delle risposte che sono molto giuste. L'intervento chirurgico sulla tiroide essenzialmente richiede un problema di grande attenzione, perché eventuali complicanze su due settori che lei ha citato, cioè quello del rispetto di questi piccoli nervi che sono situati tra trachea e tiroide, che sono i nervi cosiddetti ricorrenti o larigee inferiori, hanno una grande importanza, perché innervano tutti i muscoli dell'emilaringe corrispondenti al di fuori di uno, che adesso non è il caso di specificare. Sì. E quindi chiaramente un loro traumatismo o una loro lesione, ancora di più, provoca una paresi dell'emilaringe corrispondente. Quindi problemi di voce molto importanti, disfonia si chiama in termine. E addirittura, se sono lesi entrambi, pone problemi di difficoltà di respirazione. Si parla di diplegia fonatoria nel primo caso, cioè quindi non si scherza, e diplegia respiratoria, che è molto grave, nel secondo caso. E il secondo aspetto è quello di risparmiare anche delle piccole quattro ghiandoline della grandezza di un chicco di riso, che stanno situate lì tra tiroide proprio e ricorrente, perché presiedono al metabolismo del calcio. Sì. E quindi l'asportazione di due o più di queste paratiroidi può dare delle ipocalcemie definitive permanenti tutta la vita, più facilmente riparabili rispetto alla lesione ricorrenziale, perché eventualmente basta prendere poi il calcio. Di prendere il calcio tutta la vita. Però, professore, noi siamo in chiusura, perché mi fanno chiudere, devo essere puntuale. Il messaggio conclusivo in 20 secondi: è vero, badate all'estetica, ma soprattutto affidatevi a centri che hanno grande esperienza, perché la tiroide è in una posizione un po' complicata e quindi ci vogliono chirurghi assolutamente competenti. È questo che possiamo dire, professore? Direi senz'altro di sì. Quindi chirurgia esteticamente più piacevole, quindi cosiddetta chirurgia mini-invasiva, che è percorribile in diversi modi, col taglio più piccolo, con determinate tecniche endoscopiche, con determinate tecniche videoassistite, ma calibrate alla persona, quindi perfetto, calibrate anche al volume della ghiandola e alla grandezza dei noduli. Ecco, professore, devo scappare, perché mi danno già anche oggi il cartellino rosso. Allora, professor De Antoni, grazie per essere stato con noi. Professor D'Armiento, grazie per la chiarezza. Noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.